ci vuoi più troppo. Dai, ci serve un po' almeno, mezzo che non riesce. Ti sei fidanzato, sì? No, guarda, mia, sono a casa di Bricco, man, sono quasi al lavoro. No, ho detto, ti sei fidanzato, sì. Come lo vuoi fare, sì? Ricordati, l'amica è lottante, bisogna accontentarle quasi, un po' bisogna accontentarle. Sono le contenti, è un casino. Qui sono anche fidanzate, il ragazzo non gliene molla, un altro ogni tanto, sai, adesso è in altre zone. Senza dubbio. Allora sai, io sono amico fidato, sai, mi faccio i fatti miei e ciccia. Non fai bene, male non fai. No, se ne ancora il cuore come ce l'ho ancora, Gesù Cristo, va tranquillo che non la soddisfare ancora. Perché una volta si atrofizza, si è fregato, eh. No, la mia già è bella, sveglia ancora, a voglia. Ma dico, se non la uso poi si atrofizza e muore, capito, sei buttito. Si caga sotto, cazzo. Seconda, cazzo, senza accelerare. Ma se fa appunto c'hai? Appunto di appare, il multigetto grigio. Ma come attende, cosa c'è? La magnetica? Magnetica, una REM a base magnetica. Ma è corta di quelle lunghe? 1,5 metri. Non è molto lunga. Però va bene, dai, sento cappotta. Ma dipende, una volta in punta, una volta, quindi dipende come mi viene in mente lui, a me, capito? Vabbè. Comunque dicono che è meglio cento capotta, fa più massa, poi ma balla dico, ma la ti dico. Lo so. Mamma mia, ma questo. Che bel tempo che c'è. Prova a uscire, se c'è un gommone esci. Piovendo sta. Ma carità, eh. Vabbè. Adesso la passi, roba di terra. Adesso la va, tanta casa non entra. E da qui, non va, si è fatta in terra. Dentro casa mia già non entra. Ma vai alla vacca, mi serve l'acqua alla porta a me, cazzo, scusa, Ma ti serve? L'acqua nel posto di casa mia, se non piove il posto si asciuga. Ah, sì, Allora, raga, più vita, tanto, se me la fotte a me, non sono la coperta, fra un po' io. Ma cosa, non ce l'ha più la pizzeria tuo fratello, Manuel? No, non ce l'ha più, causa Covid, ha dovuto passare ad essere grande. Forse la banda ha potuto essere adesso. Ma pizzaiolo? No, donna Isa. Tanto non mi interessa una Isa, si assassina il prototore. Che non si dà mai per perso, meno male, se va già sempre nella vita. Se uno non si ha da fare, sì. Così. Via. Come dice l'amico, andiamo bene, andiamo. Pronto, c'è anche da mantenere due figli, figurati, un mutuo, cosa si se sta fermo, lo so, ma chiaramente alle 3? Sì, tra me, tra 10 minuti, più o meno, 10-15 minuti. Va bene, quanto c'è dentro? No, guarda, non c'è tanto freddo, perché io non mi consegno mattoni, esco fuori, sto sempre camminando io, ormai. Ma consegni mattoni in furgone o lì li carichi, non ho capito. Allora vengono, ci vogliono mattoni, ma siamo 80 metri quadri, li prepariamo, li carichiamo e se ne vanno. Un muletto? Certo, una mano, Ma tu un muletto lo sai usare? Sì, lo so usare benissimo, ma non si fa le patente, non li prendo anche. Certo che ci vuole patentino, perché se si trovano usando il muletto senza patentino passi casini, tu non metti pari il dubbio. Capito. Li fanno non nuovi, ci fanno nuovi, guarda. Ci sarebbero del tutto. Ma già da un bel ci lavori qui? No, ci sono già un tipo un mese e mezzo. Lo stipendio già è buono, sì. Sì, già è buono, grazie a Dio. Vabbè. Alla fine ti dà lui i soldi, giusto? Esatto. Finché non rientra un altro dipendente che ha avuto un piccolo incidente, l'hanno tamponato, gli hanno massacrato la macchina insieme a lui, e che rientra e ce ne passerà un po' di tempo, però già rientra. Ho capito. Vabbè, è interessante che lavorare, poi domani ti mette in mezzo, ti assume anche a te. Molto probabile, se sei volenteroso. No, molto probabile che mi assumi, ma però dai. Adesso vediamo cosa convento. Ma dico che magari se ti fai vedere che sei volenteroso, magari ti assume. Che cosa sta facendo? Gli ho messo a posto anche un muletto oggi, figurati. Andiamo a bella. E chi sia puntuale, Baghendi? No, già paga, non ho problemi. Guarda, se di quello non ho problemi. Sì, te puoi dare l'indomani, te puoi dare anche l'indomani, però già te li dà, non brucia. Ah, vabbè, non dico bruciare, ma che sia puntuale. Sì, gli è puntuale a fare le volte, dice mi faccio domani, perché adesso non ci diamo, perché sempre qui negozi, facendo commissioni, documenti, è una faccia, la baracca. Ho capito, e via. Una bella baracca, se tu puoi garantire. E non va bene. Adesso, termo idraulica, bagni, pavimenti, tutto ciò. Là già ne guadagna a soldi. Già ne guadagnano, però c'è anche molta spesa. Vabbè. Ma ne guadagna tanti. Ma non lo so quanto guadagni, però di quello poco me ne frega, però mi, tanto mi, faccio lavorare qui, faccio lavorare a casa sua, a Stintino, non ho problemi di soldi, grazie a Dio. Ah, e beh. Mi ero reso accorto ce l'ho ogni mese, va tranquillo. Vabbè, te sappiamo verde. Però piano, anche la pendulighi, il mese passa sempre tranquillamente, va. Poi mi sono fatto un bel regalo l'altro giorno anche, non mi ho visto neanche fare una bella carabina, da 4,5 funghetti, una bestia. Beh, sono tra i freddi regali che te li fa. Me la passi da soli e ok, sono un casino. Eh sì, prossime spese mi prendo, mi ordino la Venom, me la tazza a casa. Dopo la Venom, sono l'ultima antenna. Me la tazza anche a casa, il baracchino, visto che il Mobicom è da controllare, ma non giocano di chiamare mio fratello, non lo chiamo neanche. Cosa c'è il Mobicom? No, ma a me lo spinotto c'è una bella ricezione, capito? Ah, non riceve, là. Esatto. Ma fagli un attimo, te lo controlla. Che non è uno nuovo, i Mobicom. Sai cos'è? Poi te lo spiego a quattro occhi, adesso non è difficile spiegartelo. Cosa? Lo spiego a quattro, ci vediamo il problema. Non ho capito, hai tratteggiato, cosa hai detto? Te lo spiegherò quando ci vediamo per ficcare, ti spiegherò il problema. Ah, ok. Deve essere mi questione di microfono sicuramente, mi. Microfono. Deve essere il microfono, se i fili. Deve essere quello sicuramente. Vabbè. Già non ci vuole molto, Antonio lo sa fare occhi chiusi. Poi se ti servono i collegamenti, come lo sapete, li do io. Quelli sono voi i collegamenti, bene o male, già li so. Ah, capito. Poi so fare i collegamenti, non ho problemi, Ma grazie a Dio, il microfono sono pure io, un baracchino. Va bene allora. Ancora sono capace di fare qualcosa. Ma pure io mi arrangio. Lo scopo me l'aveva dato Antonio però, nel mobico. E gli avevo agganciato un microfono amplificato. Ma io c'ho un microfono della... Gianni, professore Gianni mi sa. I microfoni brutti della... come si chiamano? Quelli... Io coso giallo col beep. Ah, ho capito, Il... ho capito quale stai dicendo. No, qui c'è il Proxel di coso, di Gianni, io sto usando. Ah, DM1000? Proxel, DM1000. Ho capito. Tanto si chiama... Come cazzo si chiamano gli altri? Boh, sono non ricordo. E neanche io, rimane un po' tipo grigio, marron, cosa strano. L'M600, no, l'M600. No, magari l'M600, magari. Non mi ricordo come cazzo si chiama, boh. E la volta Roberto Quadrato, uno lì, che c'ha lo slider giallo. Esatto, la slider giallo e poi c'è il tetto del beep nel microfono anche. Ah, c'è il beep di tuo anche, la mia c'è solo l'amplificazione e basta. Ma vabbè, c'è qualche cosa dentro il microfono, uno spinotto che non si è staccato sicuramente e non vogliamo neanche controllarlo, pure la verità. Vabbè. Ma con 10 minuti per entrare qui. Mi dice no, mi. Non ci vediamo, vado a te, me lo controlli tu direttamente, faccio prima. Sì, no. Tanto quello se fai pure tu, se lo faccio fare pure tu io, mi. Non c'è bisogno di mia frate, non ci vediamo un tecnico a livelli, eh. Beh. Io ci credo. E vabbè, se uno si mette già a sapere fare le cose, là. Poi se non le sa, chiede al più esperto, no? Mettimi, lo do a te e me lo fai tu perché sai che c'è anche tu il Mubicom, però male, se lo caccia al tuo e se funziona. Ma perché portarlo non c'è problema, te lo faccio, a me non mi costa niente. Ma tanto a me, fa l'uno, fa l'altro, a me la vita non me la cambia. Sai che sono, allora, quattro fili. Quattro fili so, perché il Mubicom è a sei fili, perché c'è l'up down. Esatto, che l'appendow io non faccio niente e non ho... E neanche l'uso l'appendow. Allora potresti fare. Se no, controllare bene, ma io non ci metto tempo. Poi io vado a casa, mi faccio la doccia, poltrona, mi segocco. Tasse e mangio, mi segocco. Sì, no. Mari non fai. Se ne faccio roba di 20.000 passi al giorno, non ne faccio, perché è tipo tunistica, figurati. Beh, ci vuole riposo, altro che lavorare e riposare. E mangiare soprattutto, se no perdi energie. No, io già mangio abbastanza bene, dai. Questo è un po' la metà di quello che ero, però già mangio abbastanza bene. Fai bene, bisogna mangiare bene. Guarda, so, io sono la metà di quello che ero, figurati. La metà ci ho diventato già. Va bene, dai. Bisogna approfittarne. No, io già mangio sano perché lo fai anche diabetico, bisogna mangiare un tot di regime anche lui, capito? Allora ci siamo equilibrati, un menù fatto apposta sia per me che per lui e per mamma, capito? Kappa, stavo dicendo, è diabetico sì. No, mio padre è diabetico. Ah, il popolaccio, via. E tuo zio a proposito, quello che abita lì a Porta Sant'Antonio. Quello lì, sei messo a 6.000 a Gogo. Poveraccio. Vabbè, pace, è malattia di famiglia. Sì. Kappa. Vabbè. C'è mio padre, ha fatto un ictus, che è diverso. Poverino, vabbè, purtroppo la vita è questa, non la possiamo cambiare. È la fortuna, c'è quello che arriva a 90 anni e non dico che sta al 100%, ma ne viene uno al circolo da mio amico, c'ha 90 anni, tu lo vedi questo signore, e sta benissimo, non c'ha niente di tipo diabete o cose così, ma niente, non problemi al cuore, nulla, prende qualche pastiglietta così giusto per, ma sono 90 anni, tu devi vedere, un signorino è. È quello di noi, dai, diciamo così, dai. Va, cammina. A noi ce ne fa... A noi ci fa 10 a 0, dai. Sono 90 anni, sono tanti, non sono pochi. Però se non è matto 91 anni, non è matto 91 anni. Però non guida più, da un pezzo. Beh, logicamente, cazzo, a 90 anni guidare la macchina è un po' difficile, Giana. Vabbè, comunque, non guida più. No, Luca è un amico, del Monte. È il mio collega. Arrivederci. Arrivato sei qui. C'è un tuo amico anche qui, forse lo conosci. Amedeo. Amedeo c'è. Ma stai parlando una cosa, a Palmieri allora. No, da R. Ma da R, scusa, ho capito. Ora. Mi è appena entrato, la porta cancella, adesso vado al lavoro. Saluto Amedeo, lui è mulettista. Esatto, mulettista, tubo idraulica, fa di tutto, dai. Anna beh, ciao, che buon lavoro. Ciao Chiara, a dopo. canale 10. Buonasera a tutti, chi c'è l'ascolto. Buonasera. Buonasera, ciao Sguscio. Ho copiato il tuo QRZ, chi? Sguscio. Ciao Guscio, buonasera. Da che zona stai modulando? Tissi. A Tissi? Sì, tu? Io sono da Sierra Sierra, mi ascolti bene lì a Tissi? Qua, considera che sono praticamente senza antenna, c'è un antennino così, comunque Santiago 5, Radio 4, dai. Sì, capo, dai. Sto ascoltando bene, qua stai arrivando 7-8 qua. Cappa, ricordami il tuo nome? California. Oh, ciao California. E già ci conosciamo. Io modulavo 20 anni fa col nominativo sempre Sguscio, con Maestrale, Natalino e tanti altri. Adesso sì, mi viene in mente, molti anni fa comunque, dai. Diciamo che è passato un po' di tempo. Un po' di chilogrammi sono passati. Siccome c'è entrato anche mio fratello Andrea Valenteddu, quindi mi ha detto, Iuri, piazzati il baracchino che proviamo se ci sentiamo. Me l'ho piazzato e ogni tanto ci sentiamo, dai. Ma io stavo provando giusto questa la 48, a vedere come stava andando, perché ce l'avevo, ripeto, molto tempo fermo, e quindi stavo provando se stava funzionando bene. Tutto lì. No, ti sento bene, poi bisogna vedere in che zona sei anche di Sierra Sierra. Considera che io ho una mini boomerang messa come direttiva al contrario, quindi sono messo male con le antenne. Ma vabbè, la mia zona di modulazione è zona alta del monte, dai, Sassari. Capo. Vabbè che io ho tutto libero davanti, vedo proprio Sassari, non c'è un ostacolo davanti. E infatti per questo stavo dicendo, ti stai arrivando bene, tutto lì. Capo. E dai, più tardi la sera sta entrando Gianni W. Room, Claudio, Cristian, Natalino, insomma un po' di gente già c'è di nuovo. Ma diciamo di sì, dai, prima non c'era mai nessuno in questa frequenza, diciamo che era un po' abbandonata, dai. Un po' abbandonata, cosa vuoi, con i telefonini, con WhatsApp, con internet e tutto, avevamo tutti mollato, dai. Che ha cambiato vita, io mi sono sposato, sono venuto a vivere qua, e tra una cosa e l'altra il tempo era quello che era e poco tempo c'era di modulare, dai, rispetto a quando vivevo dai miei che stavo sino alle 4 del mattino chiacchierando. Sì, diciamo anche alle 7 io, piccoli cavo. Vabbè, altri tempi erano. Cappa, io mi ricordo quando c'era Consuelo, Falcone, Cata, cioè veramente, dopo il gioco della calzetta tutti a nanna e buonanotte al secchio. Falcone, che su quanti anni sono passati? Sì, io avevo 16-17 anni, fai 18 anni, adesso ne ho 45, fai il conto, sono una ventina d'anni buoni. Adesso provo un'altra radio a vedere come ti arrivo con l'altra. Questo è un 48 modificato. Cappa, vai, su qua l'ascolto. Dire un po' questa la radio con me, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo che adesso mi arrivi Santiago 9, però la radio è un po' satura. Abbassati appena di radio. Troppo alta? Aspetta un attimo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, già ti capisco, però è molto compressa, è molto spinta, diciamo, dai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cappa, è ancora un po' satura, Quindi abbassa ancora, così come va, 1, 2, 3. Un po' ha migliorato, però un po' te la taglia, Un po' è tagliata la voce, un po'... Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6. Sì, un po' meglio, dai. No, vabbè, si capisce, arrivi a bomba, con cosa stai uscendo adesso? Adesso sto pilotando con un Magnum, qua, e lo stavo provando, giusto? A vedere come stava andando, tutto qua. Capo, io ho il vecchio MB4 della ZG col 4005 tornato. Sì, sì, una bella radio, la conosco. Il segnale quanto è? 9? Il segnale è 9, ma se mi arrivi 9 a me che sono senza antenna, sei a fondo scala, tazza mia. Ecco, aspetta un secondo. Hola. Hola. Vedi un po' adesso, 1, 2, 3. Sei salito di 1. Sei 9, 9, 10, quasi 9,20 con picco. Aspetta un secondo, Guarda adesso è abbassato? Sì, adesso si è passato a 7. Da 7 a 9. Invece adesso così. Così è salito, giusto? K, 9, 10 come prima. Quanti sono sotto? Adesso sto pilotando. Praticamente sto pilotando con un 767, dovrebbero essere 100 watt, 90 a 100. Cappa, io sto pilotando lo stesso con 6 watt, guarda si arriva basso. È abbassato parecchio. Allora, questo è un 767 della CTN Termission HF, come amplificatore, non so se lo conosci. Allora, sto pilotando esattamente 100, 120, capito? 120 watt pilotati, così. Adesso lo abbasso, guarda quanto è sceso, adesso sta uscendo con i watt suoi, 20 watt modulati. Cappa, sì, io sto uscendo col 737 della CTE. 737, non lo conosco, il 747. No, questo è il 737, il più piccolino, sono sempre 100, però effettivi secondo me stiamo parlando di 60 forse. No, questo qua è il 767, che mi sa che non lo fanno neanche più, è un bel vecchio in linea retta, capito? Capo, no, il mio non lo fanno più di sicuro, transistorizzato ovviamente, il 737 CTE. Però l'avevo preso perché mi faceva MFM e SSB, mentre altri erano più selettivi e quando switchavi perdevano un po'. Adesso con questo sto arrivando a 9,10, giusto? Capo, 9,10 con picchi di 9,20. Adesso provo un altro amplificatore, voglio vedere quanto arrivo, così ho giusto una curiosità. Capo. Vedi un po' con questo, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6. È meglio. Mi arrivi più forte, anche la radio è migliore però, Più forte dell'altro? Aspetta, che lo sto pilotando, che ancora sta scaldando. Faccio scaldare un altro po'. Guarda adesso, 1, 2, 3. K, 9,20 fisso, radio un po' satura però. Troppo forte. Va in saturazione, giusto? Aspetta che l'abbassiamo, se no qua cadda. Aspetta che facciamo una cosa. Un attimino, facendo una cordatura qua. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Prova radio, 1, 2, 3. Sì, no, allora il segnale è sempre lo stesso, e la radio si sente che è spinta, parecchio anche io se alzo così vedi come va in saturazione. Vabbè, questo è un microfono preamplificato, questo l'ho messo io. Adesso per considerare che il Mickey J praticamente ce l'ho a 2. Ascolta, è così, io troppo distorto sono. Sì, va in saturazione. E così? Lo stesso. Quanti watt gli stai dando adesso? Così? Prova. 1, 2, 3. Ma oggi potrebbe anche andare. Io ti ascolto bene qua. Guarda un po' se diminuisce il segnale, Allora. Così quanto sono? Così 6, 8. Santiago 8. Allora, aspetta un attimo, vediamo un po'. Così invece. Ma stai che abbasso un po'. Hai fatto due scatti, sei passato da 8 a 9, da 9 a 9 e 20. Ho capito, quindi già diciamo che funziona, che pompa bene questo amplificatore, sta scaldando ancora, adesso l'ho messo ancora, ancora è freddo, quando scalda spinge ancora di più, ancora un po'. Sì, vabbè, sto pilotando. Hola. Quasi 200. Capo, già ci sono tutti, già si sente. Considera che sono senza antenna. 200. Sta ancora scaldando. Faccio scaldare un altro po', vediamo un po', facciamo la temperatura. Vediamo un po'. Come ti sente al vento, davvero? Capo, ascolta, con che antenna stai uscendo tu? Qua a livello dell'antenna c'ho una Venom, non so se la conosci, una verticale. Sì, la 5 ottavi. Capo, è un'antenna, diciamo, un'antenna così, non è che sia un granché di antenna, però ho visto che già va bene. Ma quant'è grande? Quella da 3 metri o quella da 6? 6 metri. Me l'ha consigliata Gianni, il doppio Roma, la stava consigliando come antenna. Però alla fine non lo so se mi piazzerò un'antenna così grande o andrò con un'antenna più piccola, là. Tanto. Vabbè, io c'ho in campagna, praticamente ci avevo piazzato la Wunder, anche andava bene lo stesso. Quindi non è che cambiava più di tanto il discorso. Ma a me guarda, interessa che mi sentano più o meno tutti quelli della zona e basta, tanto le gare sono finite. Sì, ma infatti non è vale la candela a sprecare corrente in vano. Vabbè, adesso è tutto più libero, quindi non c'è neanche più, diciamo, quella paura che c'era una volta, ma poi diciamo che siamo rimasti anche, magari le persone anche un attimino più tranquille, là. E infatti, diciamo che le persone c'erano prima, oggi sono più, tutto lì, vi ha vinto. Poi diciamo che la 27, poca gente, non c'è più tutta quella gente che c'era prima. Diciamo che la gente ha abbandonato per i cellulari, Facebook, tutte queste cose, WhatsApp, capito? Quindi è tutto cambiato. Capo, sì. Ma io ho perso di vista tutti, io mi vedevo in verticale con Antonio Maestrale, con Natalino, facevamo packet anche col computer, mi ricordo ai tempi, poi Cristian, Bambolina, tutta quella gente è sparita. Sì, li conoscevo, tranquillo. capo. Però dai, ci si divertiva, c'erano quasi tutti i canali occupati e c'era veramente un sacco di gente. È vero, adesso l'ho staccato, l'ho staccato perché sennò magari fa casino, faccio PVI qua, è un problema. Mi stai arrivando bene comunque, sei 7, quasi 8, figurati. Ma adesso con l'uovo digitale ancora interferenza fa, ancora PVI fa l'antenna. Allora c'era un periodo praticamente di disturbato entravo nella RAI, capito? Primo, secondo, RAI 1, RAI 2 e RAI 3. Adesso invece ho sollevato l'antenna e ho risolto il problema. Io non lo so qua se sto disturbando i vicini, vabbè, vivo in una casa per conto mio, però ho tutti i vicini a livello di antenna, però ancora non si è lamentato nessuno, se sento qualcosa me la metto su un palo, me la metto su. Adesso voglio provare un'altra radio a vedere se ti arrivo allo stesso segnale o più forte. Ciao. questa com'è? Questa come radio mi piace di più, come segnale sei sempre 9, 8, 9, 9, 10, vai, va molto di più. È più forte rispetto all'altra, vero? È più forte, ma è più bella la voce proprio, non è satura, è proprio pulita pulita. Vabbè, diciamo che questa è un'altra radio. Va, col suo mic originale, scommetto. No, questa è un MC60. Mi sembrava di quelli grigi, carini, carini. Vabbè, questo è un altro pianeta. Io c'avevo il 140, bellissimo. Questo è il 680. Vabbè. Un altro livello, diciamo, eh. Vabbè, tutta un'altra cosa. Non è a livello di baracchino. Ascolta, ma i DX si facevano in USB o in LSB? Sul canale 12 una banda su. LSB, USB. Non ho mai beccato nessuno da quando ho riacceso, vabbè che ci sono una settimana, neanche, 3 giorni, ma. Ma adesso diciamo, propagazione ce n'è poca e niente. Mare quando ci fanno belle giornate. Ascolta, passa in USB un secondo qua. USB. Aspetta che ti centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto, sì. Come ti sto arrivando io? Meglio ti ascolto. Io ti ascolto, pulito. Stai abbassando il numero di CT un attimo. Pregati da bocciatrone, burro. Ora, 1, 2, 3, prova USB, prova USB, tanto. 1, 2, 3, prova. Ok, ecco, ti ho centrato. Se volevo anche io mi sono spostato anche se ti sono con la tua voce di là. Prova a passare un secondo in LSD, se ti va bene. Portiamolo a M. Mi senti? No, va bene, ti ascoltavo bene. Ti ho centrato perché ero spostato io, forse. Io ti ho spostato di 1 kg, appena, col fine. Anche tu eri spostato, forse ero spostato io, magari. Questo frequenzimetro non è A. Ma mi ricordo che l'avevamo controllato con lo strumento una volta con Antonio e erano giuste le frequenze. Era proprio neanche un chilo che si spostava. Vabbè, questo qua ce l'avevo molto tempo fermo, capito? Non è che lo stavo utilizzando più di tanto. Era fermo un paio di mesi, diciamo, dai, non lo stavo più utilizzando, era sempre spento. No, io 140 l'avevo dato, c'aveva anche il suo alimentatore da 30 A, mi è rimasto questo 4500, un VHS di quelli portatili e basta, poi non c'ho altro. Venduto tutto? Venduto tutto, regalato, dato ai suoi tempi, intanto non stavo più entrando, le poche volte che entravo non c'era mai nessuno e alla fine mi sono un po' rotto, ho detto, finita l'era. Finita l'era del baracchino. Anche io mi ero stufato, avevo venduto un po' tutto, poi diciamo questo ce l'avevo sempre conservato, però poi per il resto delle altre radio le avevo tutte fatte in su, tutte vendute, capito? Ne avevo una marea. Dopo tanto, ma specialmente poi se non le usi certe cose diventano vecchie, si sfasciano e tanto vale darle. Ma in definitiva è così, se non li utilizzi con la macchina si sempre ferma, si rovina prima o poi. Aspetta che mi abbasso un po', mi senti sempre così? Sì, ti ascolto bene, non c'è problema. Vabbè, tu già c'hai antenna, ti sto togliendo un po' di watt che non vorrei che scaldasse troppo. Quanti watt stai pilotando? Non me lo ricordo quanti ne aveva, mi sembra che erano 10 watt, questo il 4500. Aspetta che ti faccio un po' di passaggi, guarda, parto dal minimo e salgo piano piano, poi mi dici se si muove qualcosa. Sono a 4, adesso sto andando, sono a metà, adesso sono a 3 quarti, adesso vado in saturazione ma sono al massimo. Così vai in saturazione e sali a 9. Normali diciamo che sali 5-7, dai. A metà, così sono 5-7. 5-7 adesso. Sì, già. Io mi vengo California, mi chiede per te, chiede per positivo per te. Che Pronta, parrucchiello, buonasera, ben ascoltato. Mi ascolti, sì? Chi è che chiama? Avanti. Sì, mi ascolti tu a me, Frabbo? Non sono d'accordo, sei 9.30, Luca. Alla grande, non problem, frate, tutto sotto controllo qua. C'era un altro che stava chiamando, avanti. Chi è che stava chiamando sotto? Vabbè, riprendi, guscio. Ciao, buonasera l'amico Luca, se ho capito bene. Scappa, ciao Guscio, salutoni. Se mi ascolti, sì. Sì, sì, ti ascolto benissimo. Tu è Guscio con la S davanti, o Giuseppe, chiamatemi. Ho ripreso il nick che avevo 20 anni fa di Sguscio, che era in voga in quel tempo. Niente, io muro da Tizi, Luca, tu suppongo sei a Sassari. Ah, Sguscio, scusa, sì, sì. Arrivi 7, segnale 7 radio 4, dai, ma ti ascolto benissimo, non c'è problema. Mi trovo a Monte Rosario, vicino a Franco, sono là. KK, spiegato appena, magari così migliora un po' la radio. E va bene. Che te la stai usando tu? No, io ho una boomerang, una mini boomerang messa al contrario, usata come direttiva, è un 4005, non metti 4. 4005 è tornato? K. No, ma veramente, magari anche nuovo. Nuovo è, no, ce l'ho da 30 anni, però è sempre tenuto benissimo e funziona benissimo. Ciao, è introvabile, a me piace, io ho iniziato con quell'apparecchio lì. Bello, bell'apparecchio, bello, è introvabile quello, è introvabile. Io c'ho il, si assomiglia molto, il Typhoon, a casa da mia 25, e adesso sto usando il 3009 Superstar, e con 5 watt sono, l'antenna è una Mantova, Mantova 5. Lucariello, dammi un rapporto di segnale, fa la cortesia, cap. Che segnale ti posso dare che mi ha fatto 4G di smitter? Chi è che chiama sotto, avanti? Catta 4G di smitter, addirittura. Beh, beh, andiamo dai, andiamo, no. E ancora è freddo, Luca, Attento Giovanni, si ascolti qua, cambio. E beh, Lucarie, tutto cappa? Tutto positivo, mi era un funerale, un vicino di casa è morto. Oh, e qua è morta una signora. Non sapevo niente, sono sarei andato, anche perché la conoscevo, capito? Oh, scusate ragazzi, ero in bianco un attimo, mi ha squillato il telefono. Cappa, hai capito, Lucarie? Tutto sotto controllo, come frate. Stavo dicendo, Sguscio, che io sto usando un 3009 come antenna alla Mantova 5. Cappa, il 3009 è simile, vabbè, c'era il Galaxy Saturn Echo uguale al 4005, in più aveva il frequentimetro, è il 3009. No, io, guarda, sono contentissimo di questa radio, c'ho addirittura le mascherine di ricambio, quelle per omologato e non omologato. Aspetta, tu modulavi da Sassari però? Cappa, sì sì, io modulavo zona via l'Italia, ma ho modulato per anni, Poi ho comprato casa, mi sono sposato, me ne sono andato, ci manco 20 anni dalla banda qua, forse anche qualcosina in più. Infatti già mi ricordo, dai. Già mi ricordo di te. Vabbè, forse magari alle prime, dai. I primi anni, beh. E vabbè, poi c'era sempre i ricordi di Automan, poi l'altro, quelli che, vabbè, costo anche a Falcone sicuramente, senza sicuramente. Sì, capa, mire, stavo parlando prima con California, appunto. Sì, io parlavo con Cristian, Marmolina, Antonio Maestrale, Natalino, eravamo sempre noi, da, poi io facevo packet anche, quindi mi ero un po' sganciato dalla 27, però tutte le notti con Consuelo, insomma, c'ero sempre in linea, dai. Consuelo, quale San Giovanni? Capa, che voce che aveva? E poi c'era, no, non era Consuelo quella era l'altra che aveva problemi di salute. No, Consuelo modulava da San Giovanni o da Marchetto, quella zona lì. Ci siamo conosciuti in verticale con Consuelo. E la cugina di mio vicino di casa, sono cugini di primo grado anche. Capa, boh, non l'ho più vista, ti dico la verità, non so nulla. Ha detto Lucariello! Sto provando questo apparecchio, vedi un po' come ti sto arrivando, KK e KK. Tutto positivo, che mi prende, tutto positivo. Mi ricordo si è fatto tatuaggio, al braccio, tutto il braccio si è pasticciato. Adesso lui si deve mettere in testa che quel tatuaggio non esce più. E vabbè, una volta che te lo fai si è fregato. Ehi, ehi, va bene. Avanti, sguscio, riprendi. Capa. No, adesso appena ho un attimo di tempo, eccetera, mi sistemo l'antenna, o me ne prendo una, mi faccio un dipolo. Tanto non sto a fare più gare, dai, ricordate che mi sentiate decentemente, tanto per quelli che siamo basta e avanza, credo. Perché c'è mio fratello Andrea Valenteddu, che è entrato prima di me, mi ha detto: io ripiazzati la radio, e lui è zona Sassari, però proprio a lui non lo sento, ma anche perché c'ha un magnetico lui, quindi voi lo sentite bene, io poco. Che è tuo fratello, da poco è entrato uno, Andrea? Sì, back. Lui. Capo, Andrea arriva bene, ma bene, mi sa che lui è avanti, Andrea. Sì, ciao ragazzi, lo sento anche sguscio in lontananza. Ciao Giuseppe. Ha comprato un apparato che aspetta, l'ha pagato 50 euro da internet, ma me l'ha fatto vedere l'altro giorno. È una figata, minuscolo, però funziona benissimo. Dai, comunque ti ha salutato, ti sente basso basso, ha detto. Avanti Andrea, prova a chiamarlo. Ciao Giuseppe, ti sento basso basso, ma ci sei? Ti arrivo? No, aspetta, aspetta, sguscio, aspetta. Rilascio di nuovo a tuo fratello. Avanti Andrea, per sguscio. Ciao sguscio, mi coppi? Io ti sento piccolino. Ciao Andrea, sei in mezzo al terreno, in mezzo alla tempesta, però ti sento. Buonasera. Sì, mi fa piacere. Ciao amico, mi ricordi? Scusami, io ancora non mi riconosco. Io Luca dal monte, dai, che ti arriva fortissimo qua tuo fratello, È a fondo scala, pensa tu, vabbè. Sei lì, magari in linea d'aria, siamo molto vicini. Comunque Luca da questa parte in compagnia di Franco, California, avanti Franco. Franco, ci sei? Ehi Kappa, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Ciao Luca, Andrea. Cioè Andrea, stavo confondendo con te Luca. Ciao Franco, ciao Luca, ben sentiti e ben ritrovati. Hai visto la magnetica? Vabbè, diciamo che anche noi abbiamo... Come lo ascolti tu Andrea? Quando ti arrivo a Fra? È un passaggio Andrea. Andrea, ci sei? Kappa, ci sono. Cosa mi hai chiesto? Ripeti un attimo. Fai un passaggio a Franco per vedere quanto arrivi da lui. Ok, Franco, mi coppi? 59 più 10, il tuo rapporto di segnale, Andrea. Questo qua è 9.30. Kappa, grazie. Fate un passaggio voi che vi do un feedback. Un po'. Fondo scala, anche tu, 9.30, radio eccellente, cosa ti dico, 5. Guarda la mia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 anche tu mi arrivi benissimo. E pensare che lui c'ha la magnetica sopra il terrazzo, così è, confermi Andrea. No, ancora peggio, sai come ce l'ho? C'ho la magnetica testa in giù nel bastone della tenda dentro casa. Allucinante, a fuori di gabbo. Vabbè, da. A te ti basterebbe anche una boomerang, una mini boomerang così, ma forse più una boomerang, dai, e viaggia bene, ce l'ho giù dall'altra casa, dai, dalla casa della 25, e viaggia bene con l'antenna. Kappa, adesso c'ho una magnetica da 1,20 m, no, ma la boomerang me la piazzo, penso, in una o due settimane la sto piazzando. E comunque fa piacere, dai. Perché visto la nuova tecnologia, smartphone, computer, tutte queste cose, tutti hanno lasciato il baracchino. Io l'ho sempre tenuto, ce l'ho forse quasi 30 anni, quasi ci siamo, Kappa, no, è una bella cosa anche ritornare. Poi gli amici è sempre bello sentire, poi una bella l'idea di arrivare, di sentire, è molto più bello di internet. Senza dubbio, guarda, poi d'estate ti fai collegamenti. Vabbè, avanti, sguscio. Kappa, no, sarei curioso di provare quella magnetica. Io Andrea, piglia la macchina, vieni a casa e portati la magnetica che la provo nella mia stazione, perché secondo me mi piglio la magnetica anch'io se sto così, No, prendi una mini boomerang, sguscio, vai tranquillo, anzi la boomerang, quella grande, non costa molto, capito, una cinquantina, quarantina di euro, e vai alla grande, guarda. Ma io ce l'ho la mini boomerang, sto usando quella adesso, è che per arrivarvi così la devo mettere al contrario in direttiva, con i radiali tutti aperti e puntata verso Sassari, se no ti arrivo Santiago 3. Con i radiali, ce n'è uno radiale. Quei radiali messi neanche a 90 gradi, li devo mettere a 45-30 gradi, perché se apro un attimino li metto a 90 o a 120 non prende più nulla. Ma tu ti di mettere la boomerang, non la mini, quella che ho io a casa della mia compagna. Luca, un attimo, mi sta arrivando a singhiozzo. Prima provare una magnetica come quella che c'ha mio fratello, anche perché così me la posso portare in giro, qualora mi portassi fuori un altro apparato, da. Che sta arrivando a singhiozzo io? Papà, fa un passaggio un pochettino sostenuto, perché mi sta arrivando a scatti, Luca. Boh, guarda un po', 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova, qua mi segna bene, non lo so, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Adesso andava bene. Franco, come lo occupi, Luca? Bene? Senza scatti? Ma io lo ascolto benissimo qua, sempre 9 più 30, 9, 35 modulati. Lo ascolto bene, non lo so a te, boh. Il passaggio lungo andava bene, va bene, ma il prossimo problema mio. Boh, vediamo un po' da sguscio, vediamo un po', 1, 2, 3, prova, sguscio, arrivo bene, a scatti, riprendi? No, è liscio liscio, ma secondo me gli stai arrivando talmente forte che gli entra in protezione l'apparato. Sicuramente sì, sicuramente, poi vabbè, la mia l'ho sollevata di, è alta 2000, allora aspetta, 2, 4, fai 4 metri rotti, dai, è alta 4 metri e mezzo, non so, circa 4 metri e 2, 4 metri e 3, boh. Più 7 metri di antenna, fatti il conto, 11 metri di roba. Capa, un mostro, lo scatto arriva quando forse sia al massimo della modulazione. Che siamo troppo vicini, capito? Quello che magari ti mando lo stadio finale in coso. A me lo stesso, faccio un esempio, Franco, giù dalla 25 non lo sento bene, lo devo attenuare, che arriva talmente forte che arriva tutto brubrubrubru così. Scappa, deve essere per questo motivo. Io posso ridurre l'amplificazione, cioè il guadagno in ingresso in questo baracchino, però dopo non sento più sguscio. Vabbè, non ti preoccupare, dai. Se vuoi abbasso un po' l'amplificazione, to, magari te lo metto. To, allora guarda, aspetta. Prima così è 5, adesso è a 2. Un passaggio un po' più lungo, giusto per vedere se è questo, poi ritorni alla configurazione di prima. Adesso è a 2 l'amplificazione, 1, 2, 3, va che non li posso toccare, io sono suoi originali, diciamo, suoi originali, oddio. L'ho tirato un po', ma poca roba. Adesso c'è il microfono a 2 e così è a 5, vai. Era quello, adesso vieni pulitissimo e perfetto senza scatti. Forse andava a saturare, boh, l'ingresso era troppo potente. Vai, saluto tutti, Luca, ciao anche Andrea. Ce la riascolta dopo e sto ce la farò la commissione, Lucaria, dai. Ciao a tutti, buon proseguo. Ciao Fra, saluto, alla prossima, ciao. Ciao Franco, salutoni, alla prossima. Prossimamente. Si fa dei nomi, quello del marito Sebastiano e di suo figlio Pier Giorgio. Lui è troppo autoritario. E mia sorella, per il quinto vivere, stava sempre zitta. Sebastiano e Pier Giorgio stanno pensati al denaro della sorella, ma Pier Giorgio a sentire queste accuse non ci sta. Sono indignato dalle illazioni su di me. Sergio poi, sentito il telefono, mentisce di aver indicato nel pezzo della memoria. Chi è? Ma nel frattempo... Natalino sono, dai, c'ho stazionato. Stavo parlando, ci ho messo la portante. Stavo accordando. Non riuscivo ad accordare, Giorgio, padre. Ecco, la portante sta nei bus. Dice, non so se lo ascolti tu, a sguscio da Tissi. E poi c'è Andrea, vabbè, da Sassa. Andrea sicuramente lo ascolti. Allora, prova un po', Andrea. Ciao Natalino, ti copio benissimo qua e sto seguendo anche la trasmissione televisiva, rimetti. Natalino, mi copi? Mi sa che non ti sente sguscio, eh. Natalino, lo senti a sguscio? Basso. Natalino, attento Natalino. Ehi, avanti. Ciao Natalino, ma dimmi una cosa, ma Natalino sei tu? Come? Ho detto se sei Natalino. Ehi, Natalino, so. Cosa ha detto? Che forse non ho capito bene, perché arriva basso. Ti ha chiesto se sei Natalino. Sì, è Natalino Alfa 1, sguscio. Ma chi è? Se è Natalino che con Mestrale facevamo packet noi tre. Ascolta, dilli se si chiama Giuseppe Sguscio. Sì, è lui. è un vecchio cimino, ci siamo conosciuti, ho conosciuto il fratello anche io, tanti anni fa. Il fratello è Andrea, è qui, mi sono io, ciao Natalì, ma tu facevi Packet qualche anno fa? E io? Sei ben ritrovato, Giuseppe, ne abbiamo parlato domenica, ti ricordi di Natalino? Sì, sì, ma infatti gli ho chiesto se era Natalino per quello, lui era Ita 739, me lo ricordo ancora. Natalì, eri Ita 739? Non ho capito, ripeti. Tu facevi Packet, eri Ita 739? No. No, sguscio, negativo. Ma mi ricordavo così, perché c'era 735 che era Antonio Maestrale, 729 che ero io, e 739 mi ricordo che fosse Natalino. Vabbè, poco conta, va. Andrea. Dimmi. Ma tu il medico sei? Una volta ti ho accompagnato in facoltà a fare dei lavoretti a degli animaletti. Davvero? Figurati quanti anni ci conosciamo. Fatta, allora, ma non ti ho presente io però. Tu allora già mi conosci. Sì. Sono venuto anche a casa vostra, un attimo. Capa, però ci dobbiamo rincontrare anche di persona, Natalì. Guarda che Natalino è quello brutto basso con gli occhiali, mi. Brutto basso con gli occhiali. Stai scrivendo a me, cacchio. Natalino. Quel cuoco è Natalino. Ah sì, il medico, ah sì, veterinario Andrea. No, medico dei cristiani, ma è la stessa cosa. Ah, vabbè, chi più chi meno, ho capito. E come mai proprio questa cosa del baracchino, come vi è venuta in mente? Ma con sguscio, quando abitavamo nella stessa casa, nella stessa camera, la notte, ci divertivamo soprattutto col Packet quando non c'era internet, e quindi adesso è rivenuta la nostalgia di quel periodo, e con quella scusa con sguscio, che ci sentiamo poco per lavoro, almeno ci risentiamo, e con tutti gli amici, da un ritorno alle origini, ma ho visto che l'ambiente è molto bello, chi è rimasto, diciamo così, ci fa piacere sentirlo. Guarda, io ripeto, l'ho tenuto il baracchino, anzi bugia, purtroppo io disturbavo qua e mi hanno tagliato tre volte il cavo, ma qualche anno fa, non adesso, e poi alla fine mi sono arreso, ne ho staccato tutto, poi ho riprovato, un amico mi aveva regalato un'antenna e ho riprovato e sono passati già 15 anni, 16 anni che ho ripreso, anche di più. Kappa, no, è già una cosa bella. E io ho due settimane, ma così, più per gusto, però due o tre giorni non ho sentito nessuno, ma perché mi collegavo a orari strani, poi quando ho risentito i primi, Gianni, voi, eccetera, bello, una bella sorpresa, dai. Già ne sono rimasti, già, Gianni, doppio room, vabbè, poi Natalino, Bombolino, vabbè, Antonio esce alle 8 da lavoro. Già è bello, dai. Già, poi si fanno i collegamenti, adesso come arriva il tempo bello, ti dovreste organizzare mai un'antenna, voglia fare i collegamenti, te ne passa anche la voglia, guarda. Kappa, già ce ne ricordiamo queste cose d'estate, di notte, con sguscio, era soprattutto lui lo smanettone, io stavo più che altro ad ascoltare. Vedi, con tuo fratello magari andavi un po' d'accordo, io con mio fratello, guarda, non mi faceva manco toccare il baracchino, tu pensa che quando lui ci usciva, lasciava tutto lì, io lo accendevo e mi sgamava sempre perché toccava l'alimentatore e lo sentiva caldo e mi sgridava. Poi alla fine, visto che la cosa mi piaceva sempre di più, allora mi sono fatto la concessione e mi sono messo un'antenna sul tetto, poi ho avuto sempre problemi perché disturbavo. Kappa. Sguscio, ci sei ancora? Kappa, ci sono. Sì, ma ti volevo chiedere, Luca, ma Maestrale ancora c'è Antonio? No, non c'è più. Perché lui aveva preso la patente di radioamatore, so che modulava da altre parti, però ogni tanto nel CB entrava. No, non c'è. Non c'è. Poi vabbè, Marcolino Condor, ve lo ricordate, sì. Kappa. Marco già entra ogni tanto, ma è un ascolto. Ce la si fa sentire anche lui ogni tanto, dai. No, ci siamo un po' tutti, dai, chi più chi meno. È che magari, che non ne so, ci sono quelli che entrano più tardi, ci sono quelli che magari qualcuno entra la mattina, così, come stamattina mi è capitato, ma perché sono qua a casa, faccio dei lavoretti, me lo accendo, se c'è qualcuno magari rispondo, capito? E dipende, ma c'è un giorno che non entro per niente, dipende dalle giornate. Oh, mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi. È sfoglia d'oro, c'è? Sfoglia d'oro, foglia d'oro! Io lo chiamavo sfoglia d'oro, è foglia d'oro, sì. Ah, Graziano, è morto. Ma dai, ma davvero? Quello è il fratello di mia cognata. Oh, mi dispiace. Io con foglia d'oro ci sentivamo tutte le ore, tutti i giorni. Cavolo, mi dispiace. Sì, si è avuto una febbre alta, l'hanno portato all'ospedale. E poi da lì, se n'è morto. E allora ha avuto o qualche ictus o qualche emorragia, qualcosa, sicuramente. Sì, no, se già un giorno non si trova più, già un qualche anno è morto. Vabbè. Avanti, Andrea, riprendi. Cavolo, e poi ci ricordiamo anche Falcone, ma Falcone non sta modulando più. Ma anche no, cazzo, no. Se lo ricordi Falcone, poverino. Finito! Avanti! Avanti! Ci hanno chiesto se avevamo finito. Deve essere Falcone che è rientrato. No, se rientra Falcone ci fa il gioco della calzetta. Hai finito! Che è Gianni, tu sei? Aspetta. No, Natalino, Natalino che stai imitando, guarda. E allora, uiaia. Comunque ci dobbiamo trovare di persona, Andrea. Io, tu e Sguscio. Da quando vuoi ci prendiamo un caffè e adesso anche, così, anche Luca, e se no cos'è, facciamo tutto tra di noi. Sì, aspetta, senti. Ah, meraviglioso. Io c'ho il CD, uia, va. Oh, il CD in MP3. Uia, mamma, lasciamo quante ce ne sono. Aspetta, te ne faccio sentire qualche altra, aspetta. Quando si entrava di notte, no? Io entravo anche tardi, tipo mezzanotte, l'una, c'era lui, no? Sul 40. Entravo sotto voce. Allora lui diceva, dalla quella grande, ma è a casa di mamma tua. Poverino, si cacchiava sempre. Dovevo si incazzava, io facevo incazzare un bel. Poi a me mi chiamava Luca Pugioni, perché volevo sapere il mio cognome, siccome il mio cognome non è quello, no? Dicevo, mi chiamo Luca Pugioni, però mi raccomando, questo è quello che l'avevo trovato di persona, mi raccomando non dire frequenza, no, non lo dico a nessuno. Perché a Baracchino mi diceva tante di quelle parolacce, un giorno l'ho trovato più di una volta di persona. E cos'è? A Baracchino mi cita dei parolacce e poi non parli, non mi dici niente, non apriva la bocca, non nulla, zero. Ma quando rientravo a casa, le parolacce che mi diceva, Luca Pugioni, vuoi dico il tuo nome e il tuo numero di frequenza? E non il telefono. Sì, poverino. E dopo si faceva, se la parlava da solo, ve lo ricordate? Sì, si batteva a cicciolina al microfono. Hai finito, Luca Pugioni? Io dico il numero di telefono in frequenza. Oppure, capito? Che poi aveva dato il suo di numero di